Letture di Radio 24. Le dimissioni di Riccardo Muti dall'Opera di Roma, dopo una lunga serie di liti sindacali, hanno mostrato al mondo l'immagine di un paese dove la cultura sembra essere in balia dei privilegi corporativi. Ma quello dell'Opera di Roma, dove una minoranza di orchestrali iscritti ai sindacati CGIL e FIALS riesce a impedire alla maggioranza di lavorare, è solo uno dei tanti esempi dei capricci che arrivano dai teatri lirici italiani, dagli orchestrali che pretendono un'indennità per muovere la testa a ritmo, a quelli che suonano in cappotto perché la temperatura è più bassa del previsto. Muti abbandona l'opera che affonda. Magari servirà finalmente ad accendere i riflettori mediatici su quello che tutti sanno e nessuno ha il coraggio di dire. Con queste regole e con questi sindacati, i teatri lirici italiani sono ingestibili. Mai come all'opera, le tutele si sono trasformate in privilegi. Il precedente è diventato legge, l'abuso abitudine. Fellini, che conosceva i suoi polli, aveva già capito e raccontato tutto in Prova d'orchestra. Ma come sempre in Italia la realtà supera la fantasia e l'elenco delle follie è più lungo dell'anello del Nibelungo. Per carità, formalmente tutto è in regola, come da comma 2 dell'articolo 3, ma gli effetti sono devastanti. Qualche esempio? Alla Scala, ultima stagione, sono arrivati Le Troyens di Berlioz coprodotti con il Covent Garden di Londra. Però a Milano c'era un intervallo di più, perché qualche regola idiota impone che non si possono accorpare più atti se la loro durata eccede quanto stabilito dal contratto. Inutili le richieste dal podio di un esterrefatto Sir Antonio Pappano. Risultato, l'opera, già lunga di suo, è diventata interminabile. Invece la prima del balletto Romeo and Juliet di Sasha Waltz, sempre alla Scala, nel 2012 saltò del tutto. I coristi, che dovevano muovere la testa a ritmo di musica, chiesero l'indennità da prestazione speciale. I ballerini una gratifica perché il palcoscenico era stato leggermente inclinato dallo scenografo. Il sovrintendente Stefan Lissner disse no e lo spettacolo non si fece. Poi c'è il problema del freddo. Si ricordano proteste e assemblee dal Carlo Felice di Genova al Massimo di Palermo perché in buca la temperatura era di qualche grado più bassa di quanto previsto. A Palermo i professori si presentarono polemicamente in cappotto. A Palermo, non a Stoccolma. Le indennità sono un capitolo a parte. Indennità a lingua per i coristi, perché disgraziatamente Wagner o Bizet hanno avuto la cattiva idea di non scrivere in italiano. Indennità frac per i professori d'orchestra. Indennità umidità se lo spettacolo è all'aperto. Indennità video se viene ripreso. All'arena c'è l'indennità arma, giusto compenso alla fatica di dover portare l'alabarda nel trovatore o lo scudo in Aida. Un'estate il regista di Nabucco, Dennis Criff, decise che ne aveva abbastanza e fece irrompere nel Tempio di Gerusalemme degli assiri perfettamente disarmati. L'Opera di Roma paga, cioè noi paghiamo, un'indennità Caracalla anche agli impiegati che alle Terme di Caracalla, sede della stagione estiva, non ci mettono mai piede né mai ce l'hanno messo. Del resto il contratto nazionale degli orchestrali prevede 28 ore settimanali di lavoro e tanta gente in permesso artistico da un teatro e la trovi poi a suonare in un altro. Qui davvero o si cambia o si muore. Lo dimostra il fatto che alla Fenice di Venezia e al Regio di Torino, i due teatri italiani migliori, grazie a dei dipendenti responsabili si è riusciti a fare quel che sembrava impossibile: aumentare la produttività a livelli europei. L'Opera di Roma è sempre stata il peggio del peggio, altro che vertice della produzione lirica mondiale, come da comunicato mitomane che annuncia l'addio di Muti o i pezzi dei giornalisti di corte sul miglior teatro italiano. Sì, ciao core. Il fondo lo si toccò a una prova della Valchiria diretta dal grande Giuseppe Sinopoli in un teatro pieno di studenti. Alla fine Sinopoli annunciò ai ragazzi: adesso vi facciamo sentire il tema della spada. Servivano pochi secondi, ma si alzò un sindacalista e disse: maestro, la prova è finita. Sandro Cappelletto, che era in sala, vide Sinopoli spezzare la bacchetta per la rabbia. Del resto, nella capitale, la musica è Santa Cecilia, non certo l'opera. All'opera facciamoci un parcheggio. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alberto Mattioli «Muovere la testa a ritmo? Va bene se c'è l'indennità» dalla Stampa del 22 settembre. Letture di Radio 24. In occasione del centenario del debutto cinematografico di Charlie Chaplin, Peter Aykroyd, autore di importanti biografie dedicate a Dickens, Shakespeare e Thomas More, ha scritto un libro nel quale rivela il retroscena della vita privata del grande comico inglese. La sua dedizione totale al lavoro, la passione per le donne, il carattere tenero e crudele al tempo stesso. Una delle questioni più dibattute è però quella legata alle sue tendenze politiche, le stesse che nel 1953 lo costrinsero a lasciare gli Stati Uniti per stabilirsi definitivamente in Svizzera. Ma Chaplin era davvero comunista, come si è sempre sostenuto? Chaplin proclamò sempre di non essere comunista, sebbene abbia espresso ammirazione per il regime stalinista. Ancora nel 1943 elogiò entusiasticamente il sistema sovietico in quanto mondo meraviglioso, che dava speranza e sogni all'uomo comune. Un sistema le cui aspirazioni alla giustizia e alla libertà diventano più gloriose di anno in anno. Ora che il tormento della nascita è finito, possa la bellezza della sua crescita durare in eterno. Parole simili possono risuonare false all'inizio del XX secolo, ma all'epoca esprimevano un pensiero condiviso da molti. A Hollywood, Chaplin aveva amici e conoscenze dichiaratamente radicali, fra cui gli scrittori Donald Ogden Stewart e Clifford Odets. Aveva anche stretto amicizia con alcuni esuli europei di sinistra, come Bertolt Brecht e Fritz Lang, che formavano una comunità contestatrice e a volte colma di risentimento. Hollywood stessa divenne un rifugio per molti artisti e scrittori ebrei fuggiti dalla persecuzione di Hitler. In particolare Chaplin conosceva bene Hans Eisler, un compositore poi sospettato di essere una spia sovietica. In seguito la sua amicizia con Eisler sarebbe stata usata contro di lui. È difficile credere tuttavia che Chaplin avesse il rigore o la determinazione necessari per diventare un comunista. Aveva fatto e continuava a fare una grande quantità di denaro giocando in borsa. Per molta gente era l'incarnazione dell'uomo di successo che si è fatto da solo. I suoi amici lo consideravano, con un'espressione dell'epoca, un socialista da salotto o un liberal chic disposto a condividere i principi socialisti senza fare alcun tentativo di metterli in pratica. Istintivamente, però, detestava l'ingiustizia e l'oppressione. Per tutta la vita si batté contro l'autoritarismo e il dispotismo. Una volta disse: «Ho conosciuto l'umiliazione, e l'umiliazione è una cosa che non si dimentica mai». Era questa la lezione che aveva imparato nel corso della sua infanzia. Sarebbe stato più corretto definirlo un libertario con tendenze anarchiche. Aveva preteso e ottenuto libertà per se stesso. Non voleva che gli si dicesse che giorno della settimana era, per esempio, e non indossava mai un orologio. Questo individualismo appassionato fu il fondamento del suo credo politico. Ma forse c'è una spiegazione ancora più semplice. Come disse Tim Durant, in fondo è un mattatore, e lui lo ammette. Vuole stupire e suscitare l'interesse della gente. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Peter Aykroyd, Charlie Chaplin, ISBN Edizioni, 262 pagine, 25 euro. La totale vocazione di Charlie Chaplin al lavoro gli lasciava pochi spazi da dedicare alla famiglia. «La mia vita con lui non è stata che silenzio», scrive Jane, sesta degli 8 figli di Chaplin, nella prefazione del libro che ha dedicato al ricordo del padre, pubblicato nel 2009 e ora riproposto dalla casa editrice Perrone. L'unica eccezione è rappresentata da un lungo colloquio avuto il 17 novembre 1974, 17 minuti da sola con suo padre, in quella che per Jane è stata una vera e propria lezione di vita. Cambiare è la sola cosa veramente difficile, il solo antidoto alle preoccupazioni e ai dubbi, dice papà. Le preoccupazioni? Ti capita di preoccuparti? Ma sì, certo. Per cosa? Per te, i tuoi fratelli e le tue sorelle, vostra madre, il mio lavoro, di fare le scelte giuste. Avrei potuto farne di migliori? Hai dei rimpianti? Qualcuno? Tipo? Sospira con un sorriso amaro. È passato così tanto tempo. Fissa il pavimento e alza gli occhi verso di me. Poi si stringe nelle spalle dicendo: «È quasi impossibile non avere rimpianti nella vita». Lancio uno sguardo ai suoi piedi, poi alla finestra. La neve cade senza sosta. «A che pensi?» mi chiede. «A te». «A me?» «Sì, finora non avevo capito veramente come fossi». «Cosa avevi capito allora?» «Che eri inaccessibile, mentre in realtà non lo sei. Ed è straordinario rendersene conto». Prende la mia mano tra le sue, con piccoli dolci buffetti. «Sono molto felice che tu lo abbia capito». Sono persa nei miei pensieri, e lui pure. Vorrei allungare il braccio e sfiorargli la mano, dirgli quanto sia fiera di avere un padre come lui, quanto lo amo, davvero, con sincerità. Ma sono sicura che le parole uscirebbero di traverso, e ho paura di parlare. Ho paura di quello che le sue braccia attorno a me potrebbero risvegliare. L'amore, quando non si ha l'abitudine di riceverne o provarne, può far sentire veramente fragili. Restiamo semplicemente seduti davanti al fuoco, totalmente coscienti della nostra presenza reciproca e di questo calore appena scoperto che allontana il freddo circostante. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Jane Chaplin, 17 minuti con mio padre. Giulio Perrone editore, 464 pagine, 12 euro. Nei giorni scorsi Luigi De Magistris è stato condannato dal Tribunale di Roma a 1 anno e 3 mesi per abuso d'ufficio nel corso dell'inchiesta denominata Why Not, che il sindaco di Napoli aveva condotto quando era magistrato. Niente arresti, pena sospesa, ma il fatto che rimangano ancora dei dubbi sull'interdizione dai pubblici uffici sposta l'attenzione sulle conseguenze politiche della condanna. De Magistris, che in passato aveva invitato Berlusconi a dimettersi quando era convinto della sua colpevolezza, ora che a sua volta è stato condannato, per prima cosa si autoassolve. Il De Magistris politico ha detto cose che il De Magistris magistrato mai si sarebbe sognato di dire, commenta Massimo Rebotti sul Corriere della Sera, che poi prosegue. Il De Magistris politico ha tuonato: «Ho subito la peggiore delle ingiustizie. Ho ricevuto una condanna per fatti insussistenti, la mia vita è sconvolta, ma rifarei tutto». Il sindaco ha aggiunto di non volersi dimettere, proprio in virtù di quelle accuse che ritiene, lui ma non il tribunale, inesistenti. Ed è qui che si affaccia la doppia identità e il doppio binario che De Magistris pretende per sé. Nessun dubbio, infatti, che il De Magistris PM, ma anche il De Magistris politico, prima che diventasse un indagato però, di un politico condannato avrebbe chiesto le dimissioni, e immediate. Ma ciò che diceva allora, adesso non vale più. Ritenersi vittima di accuse infondate, oltre che legittimo, è una costante che accomuna tanti condannati. Il più noto di questi, Silvio Berlusconi, ha sempre sostenuto di essere innocente. I tribunali hanno ovviamente deciso di prescindere dal suo parere. Lo stesso De Magistris, non essendo coinvolto, ha reclamato più volte le dimissioni del leader di Forza Italia, convinto della sua colpevolezza. Ora che un tribunale ha condannato lui, il sindaco, non ritenendosi colpevole, definisce la sentenza legalità formale intrisa di ingiustizia profonda e conclude, incurante dell'enormità, di non voler cedere alla tentazione di perdere completamente la fiducia nello Stato. Questo il commento di Massimo Rebotti nel suo editoriale De Magistris condannato si autoassolve moralmente, dal Corriere della Sera del 25 settembre. L'immigrazione islamica porta a un nuovo totalitarismo. Non ha dubbi George Bensoussan, uno dei maggiori storici della Shoah. Intervistato da Domenico Quirico, il giornalista della Stampa che lo scorso anno era stato per 5 mesi nelle mani dei rapitori in Siria, spiega che all'interno della nuova immigrazione europea si nasconde da una parte il pericolo della diffusione di un nuovo tipo di antisemitismo, dall'altra la crescita di un nuovo totalitarismo islamista che fa proseliti tra i giovani islamici delle nostre periferie. Perché parlo di totalitarismo? Chiarisce Bensoussan nel corso dell'intervista. Perché l'Islam è una religione totalitaria, inglobante, che non distingue tra materiale e spirituale. E poi c'è il fattore demografico. Una delle forze del totalitarismo nazista è stata la forte demografia tedesca nell'Ottocento e nel Novecento. Il numero gioca un ruolo chiave nella diffusione delle idee. E questo vale per l'islamismo di oggi. Un pericolo maggiore che il terrorismo, commenta Quirico. Il pericolo maggiore non è il totalitarismo islamista, spiega Bensoussan, ma è l'incapacità degli intellettuali occidentali di vedere il pericolo per la paura di essere tacciati di islamofobia e di razzismo. Che fare dunque? Domanda Quirico. La prima cosa è definire le cose per quello che sono, risponde Bensoussan. Più si definiranno le cose e più facilmente si risolverà il problema. In Occidente, invece, si ha paura delle parole, si è terrorizzati da alcune parole. Per esempio, dire che una parte della gioventù dell'immigrazione musulmana in Europa costituisce un potenziale pericolo. Non tutta, certo, una piccola parte, ma è il cavallo di Troia che è già tra noi. Chiede infine Quirico, l'attacco dell'islamismo non è per caso passato dal piano terroristico a quello militare? Sì, è la conclusione di Bensoussan, ma i combattenti del califfo sono 30.000, un nulla dal punto di vista militare rispetto all'Occidente. Li si può distruggere in una settimana. Non siamo allo scontro Stato contro Stato, siamo nel quadro di un conflitto asimmetrico. Come nel 1939 non sono le armi che mancano, è la determinazione politica di usarle. Era il senso dell'impegno di Churchill quando disse: «Voi avete voluto evitare la guerra e ora avrete la guerra e in più la viltà». Siamo nello stesso scenario di allora. E questi erano alcuni estratti dall'articolo «L'Occidente si svegli, ha il nemico in casa». Un'intervista di Domenico Quirico a Georges Bensoussan, dalla stampa del 25 settembre.